tua giù in Finlandia e destino morì. Ma tu te divise, ora le via, oh mio caro padrone, contro te scioperia. Le belle promesse che lui vi farà saranno menzogne, la miseria verrà. Ma tu te divise, ora le via, oh mio caro padrone, contro che scioperia. Dal magro stipendio che lui vi pagò, per strane ragioni la metà prelevò. Ma tu te divise, ora le via, oh mio caro padrone, contro te scioperia. Laggiù in Finlandia si invecchia di più, la schiena si incurva, ma di sempre di più.